canale 23, 1, 2, 3, prova, canale 23, prova, canale 23, prova radio, 5, 6, 7, 10. Mi chiamando serve qualcuno, qua non c'è mai nessuno, 1, 2, 3, prova radio, ahi, 1, 2, 3, 10, 10, sembra va tutto bene, non c'è nessuno, comunque dai, 1, 2, 3, 10, io c'è nessuno, una rispostina, 1, 2, 3, 10, 10, prova radio, maledizione, 10, 10, 1, 2, 3, 10, 10, prova 10, prova 11, 12, 13, 10, ciao. Nessuno in prova, ok, va bene. Hola, ehi, Dorbi Dorbi. Tu a casa a me di Drum, no, buonasera. Ah, sto già a radio, cosa succede? Ma cosa? Cazzo, mi bevo una bomba, Ma bomba? No, come cocco? Eia! Ma sempre come te prima, Sto ciambando un'onda. Ehi, cazzo, guarda che è sempre quello sto usando. È fortissimo quella radio. È fortissima. È come ogni giorno. Né più né manco. Tre bie. Va bieto. Comunque buonasera, ben sentito. Oggi è una bella giornata. Poi io gioco a maniche gocce tutta la di. No, a maniche corte no, No. Se non ti becca subito, a me mi becca subito. No, mi sono messo a quella maniche lunghe, la maglia, più la teppa mi sono messo, cazzo. No, io sono tutto da stamattina, che c'è un giubbottino, ma ero su denne, cazzo, passo da giù di tu. È meglio di me, la maniche gocce. È la maglietta giuro è buco, è catta, non so chi vi ha sudato, a voi mi fa di male così. Beh, c'ho degli altri, e ci sta bene. È caldo che sta facendo caldo, è una bella giornata. Io dopo pranzo sono sceso in campagna, ho tagliato un po' d'erba, che c'era da tagliare, e l'ho tagliata tutta là, dove sono finito. Così che adesso, fra un mesetto se ne fa a tagliare l'erba, farò altre cose che c'è da fare, capito? Mi rimesso sento che ha poco fame. Sì, fate bene. C'era Bacchigia da ieri, da presto, ieri eravamo da presto. Insomma, io non vedo niente a rimani. Io ho sentito ieri sera già. Sentito, sta marcando bene, che apparecchio stava usando? Ah, l'ha messo a posto quello là, era un filo staccato nel microfono, c'aveva. Stava... è per quello che usciva male. Ho visto che stava uscendo bene, e per cui... l'orario non è arrivato, arriverà domani, no? No, è arrivato stamattina, gliel'ho già dato. Ah, allora stasera lo sentiamo. Penso di sì. Perché lo provo stasera quando sale da campagna. Allora gli altri. Almeno c'era uno che è tranquillo, va, e va bene così. Ah, ma anche quello là ha provato dove era il difetto, e l'ha aggiustato, si era staccato un filo, si era staccato. Ed era attacca o non attacca, è per quello che usciva, molte volte usciva di portante. Infatti. Stavo facendo bene, non sta un tratto, buon portante. Ma adesso dice che c'era un filo di staccato. Dopo sei incantato e non si va nemmeno. Perché invece ieri sera stava funzionando bene. Sì, ieri sera stava funzionando bene. Infatti, adesso che l'ha messo a posto, l'ha lasciato così. Quando deve salire modula così, modula. Tanto il debuto non può fare. Poi si adotterà quello lì quando è giù. Io ne voglio, aspetta, voglio provarle quello microfono di Lassat. Quello rosso con le corna. Siamo conosciuti. Con le corna il microfono rosso quello rosso, guardate, lì e fra più se cacciano e adesso ci metto la batteria e lo trovo questo è il 2005 l'Inter che hai capito? Sai, provo a vedere come esce un secondo a sotto sono qua otto, eccomi. Ehi, guarda, c'è uno col cicalino. Sta la Bacchisi. Ma penso, troppo basso, Aspetta, c'è la Bacchisi, oh. Allora dove vedo? Come c'è a far reggere l'apparecchio? Oh, era... 2 o 3 di segnale, mi segnava. E qua c'è la metà, 7-8 da me. Sì, sono già si intende. Adesso ho abbassato il tasto a vedere. Sto mettendo a posto, ci sto mettendo la batteria con il microfono. Ho sentito a vedere se è buono. Hello. Attenzione signor Battisio! Io Giomari! 1, 2, 3, prova, com'è? Non vale basso come radio! Basta! E adesso 1, 2, 3, prova, ora! Adesso va benissimo! Cazzo! Ero con 3 vatti, ne manco burro, cazzo, aspetta! 1, 2, 3, prova avanti, com'è? Già va bene adesso. Ma com'è prima com'era? Migliore o peggiorato? No, non ha peggiorato per nulla. Fa sempre la stessa. Allora non amplifica già niente, strano. Ma già abbassato le cose, ma vedere se amplificava. Prova a vedere. 1, 2, 3, prova, 1, 2, 3, prova. No, è sempre la matessi. Allora batteria che lo scegli. Hola, hola. Aspetta, con 5 watt sono. L'ho visto che sei con 5 watt. Se arrivando a fondo scala. Boh, aspetta un attimino. Ma che deve scaldare un po', no? Vabbè, da quella da prima, adesso, com'è la radio? Ho aumentato del radio. Va bene, è aumentato. A voglia. Ecco, strano, hai appiccicato quello là. Strano, è nuovo, cazzo, no. Allora scarica la batteria. Sicuramente scarica, che quando scarica esci basso, esci. Ma ti va di somme. Aspetta, ne ho un altro nuovo, Prova a vedere. Attenzione, signor Bacchisio. Sore. E a Giomari. Come? 1, 2, 3, prova. Sempre come poco fa. Massa. Prova a aumentare a vedere qualcosa. La levetta, boh, non so, o la manopolina che c'ha. Non c'ha una manopolina. Aspetta, non di molto. 1, 2, 3, prove adesso. Oh, non ho aumentato nulla. Strano, proprio strano. Prova avvicinatelo alla bocca a vedere. Sono vicino, sono vicino, proprio vicino alla bocca. Hola, hola. Hola, Si è aumentato un po'. Come te l'hai avvicinato un po' che si è aumentato. Allora meglio il microfono giù, aiuta. Forse meglio. Ma un po' caldo è aumentato comunque. Oh, un po' caldo è aumentato. Prima ti sentivo un po' lontano dal microfono. Adesso ti sento che sei vicino e la voce tua proprio. Aspetta, Ma non c'ha qualche manopolina quello lì? Hola, adesso è macchina. chi vieni? È a metà, vedo un po'. No, no, è sempre un mappessi, no, ho aumentato di nulla. Allora ti ricordo il montolaccio. Ma comunque, lo so, già si comprende bene con chi su, hai la voglia. Vabbè, ma dovrebbe uscire, cazzo. È a metà. Diciamo, vedi? Adesso è a massimo, boh. No, no, è meglio così originale. Allora è da passare un montolaccio, Vediamo un po'. Hola, hola. Hola, no, no. Hola, hola. Com'è adesso? Adesso si sente in lontananza, tipo eco. Ecco, forse c'è l'eco, sa, vedi? Vedi? Adesso l'eco l'ho tolto. E vediamo un po'. Ad uno, due, tre. No, allora è meglio il suo, dai. Sì, infatti è meglio il suo con quello lì. È meglio il suo. Sano però, Hola, hola, hola, hola. Uno, due, tre, prova. Ma quello non è amplificazione, quello è eco. E allora c'è qualche cosa che lo fa. Vabbè, allora lascio il suo, là. Ma sente negacuno sotto, in lontananza. C'è la propagazione, sto. Sì, propagazione forte c'è stasera. Allora. Il tono è così. Uno, due, tre. No, ma ci può fare, va. Vediamo un po'. Ecco. 4 watt. Ma stai uscendo adesso, stai uscendo più forte di poco fa. Allora c'è qua. Che sei nuovo questo microfono, sai. Allora questo apparato non va bene. Deve essere. Vuol dire che non l'accetta amplificare. Sì, proprio così deve essere, sì. Vabbè, io l'ho voluto provare, là. Benissimo, ugualmente, lascio questo, comunque c'è un po' di propagazione, si sentono, ma un reddito si sentono. Andiamo, andiamo. E allora, si era Bacchisio, si è affacciato? No, adesso te lo chiamiamo. Attenzione, signor Bacchisio! Ah, non è che si è inciampato qui da Gostione, no? No, sicuramente sta salendo da campagna, o se pone nella macchina. Aspetta, che vuole... Voilà, spiegare due lenzuola sto. Sono qua. Signor Battisio! Attenzione Graziano! Non stai uscendo bene, no? Vabbè, non si è sentito. No, non si è sentito nessuno. Allora in campagna ancora, dai. Siamo rientrati. E chi era quello che è entrato prima? Boh. Era Brucendi, deve essere a Bruvendi. Ah. Lasciamolo provare. Se no, c'è Giubbaedu. Strano questo microfono, bello occhio. Cazzo, a metà dovrebbe amplificare. Perché sono microfoni buoni questi qua. Cazzo, me l'ho pagato. No, 90 euro. Vuol dire che non va bene per quella radio. Non è a tutte le radio che va bene. Lo so. Connessioni, non la sotto, la batteria se la metta nuova, 9,7, si vede che non amplifica nulla, non amplifica niente, ho che si ritaccate. Sicuramente non va bene con la radio lì, no, non va bene. Ma hai usato l'hai con quella radio? Sì, che prima, sì, ce l'avevo prima e andava bene. Sì, allora c'è qualche altra cosa c'è? L'ho tolto, infatti quando ho cambiato l'antenna avevo tolto il microfono per amplificato tutto e l'avevo messo da parte, ma prima era attaccato a questo apparecchio. Adesso si vede qualche cosa allora che non è regolata bene. Cosa mi dice a lo metto a metà il macchino, no, aspetta, allora, Kiev la massima. C'è il microfono suo. Ecco, il microfono suo stai uscendo bene, stai uscendo. È abbastanza comprensibile e a voglia. Allora, c'è qualche cosa. Forse perché mi ne farà di terra. Non penso, no. Si sia fatta che cosa? All'anima. Chiaro me l'ha scelto. Ha preso un colpo, però sembra a posto. È nuovo il microfono, cos'ha? C'era un annetto, però è stato usato più o meno 2-3 ore, non di più. No, strano che non ci sia qualche cosa allora dentro, che non sia la capsula che non prenda coso. Vediamo un po'. Non ce ne sono, però strano, strano proprio. E vabbè, vuol dire un altro momento, lo proverò. Infatti, perché dovrebbe, come sollevi la manopolina, no, come la sollevi, quella dovrebbe amplificare. Infatti, lateralmente ce l'ha lateralmente. Che cosa mi si cazzo? No, che mi frutto, io ne ho preso i cazzi, ne ho un 7-8 mi barò di più. Allora, vabbè. Attenzione, signor Bacchisio! Forse la rovescia il tuo, aspetta, io stavo abbassando in più, invece il volume devo aumentarlo verso su, aspetta. C'è una freccia, amiche, nella manopolina che te lo dice. Hola, 1, 2, 3, prova. Vedi che è aumentato appena. Ok, ancora aumentato, 1, 2, 3, prova. Non di molto, comunque è aumentato. Va bene, allora, vai. Comunque, 4, non è che puoi precedere più di tanto, Vediamo un po' allora. 1, 2, 3, prova, si sente? Sì, adesso sì. A voglia, più di prima. Vabbè, ma... 5 watt, no, 1004 watt. Ah, 4 watt è meglio, dai, lascia 4 watt, già funziona allora, dai. Infatti, può funzionare, sì. Attento, signor Bacchisito, a Bisese, e non rispondi chissà quali campagna zappino. Infatti. Bacchisito, una cosa mi ci va uscendo, ma non ce la dico, va. Già poi ne si la macchina, va. Non si sa la vede la macchina, non invece. No. Se si lava la macchina da voi va zeva. Quelli non si sentono più, No, infatti deve essere sparita la propagazione. Deve essere che è sparita, perché più poco fa arrivava il portino, Sì, ce n'era uno, arrivi a voi. Per carità, evidentemente hanno sentito a noi e hanno cambiato canile. Deve darsi. Comunque erano portoghesi, erano. Portoghesi? Mettere i pagnoli. Sì, sempre, ma sono lontano, va. Oh, ci sono sempre i portoghesi, sul 34, Ci sono tutti i giorni, tutte le sere ci sono loro. Meglio così, infatti lontananza si sentono. Li senti? Sono bassi adesso. Lontananza si sentono parecchio. Per carità. Questo è Santiago no, questo è. Io ho abbassato il commutatore per non sentire il QRM. Sentire sento comunque. Questo è forte. Ce n'è uno basso, ma questo qui è stato adesso è molto, molto forte. Se abbasso il tastino li sento forte, li sento. Io pure sono attivato. Perché se no c'è QRM, capito? Sento parecchio, non sentire le moto che passano, che no, che ne basta una ogni 5 minuti di moto. Facciamo dovremmo parlare anche a loro. Però io la mattina li sento sempre sul 34 e tutto il giorno ci stanno, capito? E sono tutti portoghesi. Infatti. Ieri sera c'era anche Marino, c'era, e poi capirà, prima di entrare Marino verrà Gianni. E dopo se l'ha data a 10. Infatti. E vabbè. Noi siamo qua. E io sono qua. E io via che andiamo, via andiamo. E io ho sentito anche a Marino già. Tu mi sembra che sei andato a prendere la tua 50, che infatti io ho chiuso, tu non c'eri. No, sono rientrato alle 8:25. Infatti, perché ci ho parlato con Marino io, per cui so che c'era anche Graziano. Sì, anche Graziano c'era, che poi ha chiuso, alle 8:20 ha chiuso. Se ne è andato a farsi la beretta. Aspetta, Portogallo, fammi sapere un comprendito la Italia, cambio. Mio marito ha detto che non vivo a vita con l'Italia. E noi ci lasciamo cantare, che siamo i fa. Guarda, se le sentiamo noi, ti sento anche loro, hai sentito? Ci sono anche l'Italia, inteso? Esattamente, mi Gio Maria. Adesso Portogallo, compreso l'Italia. La Italia che ci ascolta a cambio, ma la Leara dice. No, vuol dire non ha neanche va bene con noi. Magari loro stanno usando potenze, noi siamo quattro vatti. Come sentiamo noi, ci sentono loro. Ma se c'è la propagazione così, magari c'è qualcuno magari più forte, c'è qualcuno che magari è più basso, e quello gli sono bassi, infatti li sentiamo bassi noi. Però ce n'è uno che arriva fortissimo. Abbassi dove? Caccia. La partita c'è, ma c'era ieri notte la partita con l'Ucraina. Ucraina, che hanno pareggiato. Dice Italia a Belgio, questo deve essere under 21. Cioè questo deve essere l'under 21. Fate così. Santiago Cicco mi ha arrivato adesso. Oh, ma no, io non lo sento. Vabbè, lasciamo, stanno facendo questo locale e per cui non è che disturbiamo più di tanto, capito? Come non disturbano loro a noi, capito? Che lasciamo di parlare e si raccampa. Se si comprende è buono, se no pazienza. E va bene il Sassareggio. Se no se si può ne comprendi. Ce n'è uno che è fortissimo. Buongiorno signor Battisio! Si è amplificato il burro, Sta pompando anche. Quello lì sta pompando. Io non ho giù pompa da pompargli. Ma io ho il compressore se si vuole pompare. Se vuoi a pomparlo, un'altra bomba, dai io su, è un bombo. La batteria me ne sto togliendo al microfono, non gliela lascia attaccata, che nuova. Staccala allora. Attenzione, signor Battisio! Ecco qua, se l'ho tolta, se l'ho conservata. Così è, va tu bene. Poi la prossima volta. Non ne lascio il batterino, nei trampificati. Per cui meglio se pettoglie, l'hai capito? Ah, ma chicco, è già... davvero, già un 6 mesi o 7 mesi fermo. Compratele nuove, compratele nuove, Gio Mari, buonasera. Poi, Carifano, sempre trombetti dicevi, fra. Io oramai no, oramai, sono in pensione adesso. Ah, così, lascia la la domani, mi fra, lascia la domani fra, e vai piano piano, se io domani ho cose serie. Le cartucce poi vanno le spalle, non è più, Buonasera, comunque all'altro non ho capito che, mi sa attore, buh. Sono io, buonasera. Ah, ecco. Come ti va? Bene, sto bene. Dammi un rapporto di segnale, tu ricidi in radio, fa la cortesia. Ah, 9:10, fa radio 5, perfetta. Buona è la radio. Sto provando un M4. Ah, già è buona. È buona come radio. E la voglia. Chiara anche. Quindi va bene, dai. Anche tu stai arrivando bene qua. Capito, Giovanni? Eia, già va bene, fra, già va bene. Fanno sempre bene. Avvio, tranquillo. Senta con gli sposi. Capa, Giovanni, c'avevo la batteria scarica del MB+4, quindi l'ho cambiata. E la stavo provando a vedere se stava andando bene. Già va bene. A voglia. Sto utilizzando il Midland l'ala 68 pilotato con l'MB+4. Va benissimo, a voglia. Senti che la piccata, vai. Ehi capo, lo posso ancora aumentare, ce l'ho a 2 il Mickey qua. Non è che lo guardassi, no, magari fischia o innesca quando lo metti a massimo. È possibile. Ma così già va bene, dai. La vai sta a 2 di solito, perché se lo sollevo poi raccoglie tutta la rondezza. Eia. Io sono a metà, ma c'è un microfono normale però Vedi, ci sento. No, questo è il preamplificato. Oh, no, io uso più amplificato io. Solo microfono normale, basta. Li ho messi tutti in pensione, sono i preamplificati. Vabbè, io ce l'ho e l'utilizzo. No, ce lo butto. No, nemmeno io ce lo butto perché sono... sono soldini che ci sono io, cazzo, è finito poco di là, cazzo, è tutta roba nuova, Giovanni, oramai, l'era mi sa che è passata di queste cose. Vabbè, quando passa il tutto vuol dire che mettiamo dentro la pentola e bolliamo. Oppure apriamo la finestra e buttiamo tutto giù, già. No, io sto usando sempre, questa è la 68, quello famoso che tu sai. Va bene, dai. Quello che avevo io. Già avevo cambiato il KIA perché c'era il finale di ricezione crepato. Però va benissimo, non ho avuto più problemi. E poi la colonnina gli ho cambiato. Vanno bene, cazzo, l'apparecchio va benissimo. A voglia. No, vabbè, non ho mai problemi, Adesso era da un bel di tempo, fermo, però già funziona bene. A voglia, avanti tu. Tanto già si sente che l'amplificazione è alta, ed è buona. Qua c'ero al 2 il Mickey Gay, se l'aumento magari strappa, capito? No, così, non c'è bisogno. Dove c'è bisogno, ma aumentare la macchina, lascialo così che va bene. A voglia, va. Guarda voi ti dica, beh, lo stai combinando Giovanni? Lo sai cosa, non è che possa combinare tanta cosa io, capito? Però ogni tanto un giretto io me lo faccio, una passeggiatina in campagna e me la faccio, anche se non faccio niente, magari niente no, qualche cosetta la faccio, troppa leggera, però tiriamo a farci, la bella meglio. Adesso io parto in Belgio il 22 di dicembre, cioè il 20 di dicembre e rientro all'anno nuovo, capito? Approfittare fra, tu sei sempre il tornico superiore, per cui approfittare, sì che c'è vita, c'è speranza. Io mi diverto Giovanni, cosa ma tanto dalla vita non ne abbiamo niente, quindi. Bisogna divertirsi, mangiare, bere, trombare, boh. Allora, bisogna fare così. Cosa ci vuoi fare? Adesso ci stavo facendo dei lavoretti che ci avevo sospeso. meglio chiuso se la mattina finire una cella su Gerati e poi a Giubinito per Sagitto. Perché anche cose bisogna farla sempre, anche se no se ti fermi è una questione seria, da. Ehi, allora, se ti fermi sei perso. Eia, avanti certore. Ehi, fa di bene. Che se diventi? A Marco così non si annuia. Tutto della vita cosa ne hai? Conservi da buiba cosa, per niente. Ah, infatti, è utile che conservi invece. Vai. Ma se per te c'è un burumi, te ci dovrà andare in Inghilterra. Ma è figliura. Fatto una passeggiata, una ghida. Poi me ne dorro. Adesso io ci avevo ospiti dal Belgio, ci avevamo l'altro, quando è il mese scorso. E insomma, li abbiamo ospitati 15 giorni. Adesso addirittura ci hanno fatto il biglietto se dovevamo salire noi in Belgio. Io ci volevo salire. Salite se non mi offende, vabbè, allora ha fatto il biglietto, Adesso il 22 partiamo e rientriamo a gennaio, passato la Befana. Meglio così, allora può dedivirsi un po' carino. Già lo credo già. Poi lì ci sono anche, questo è molto bravo a pesca, perché va a pescare i salmoni addirittura. Ma è in fiume? In Belgio, e allora è fiume, prende i salmoni e pesca. Sono buoni, sì. Se li fa seccati come si fanno, sono buoni. Lui li tratta, li biglia, li fa, li affumigheggia, non so come li tratta, però dice che sono buonissimi. Io l'avevo comprati quelli affumicati, tagliati a fette. Però questo deve essere un'altra cosa. A prenderli vivi e farli loro, ecco, è tutta una cosa diversa. Sì, è così. A me proprio il salmone non mi piace, Cesari sì, tutti gli altri sì, ma proprio il salmone non mi piace, non so perché, ma... gliel'hanno fatta assaggiare in tante maniere, però no, non è per me, cosa vuoi fare? Preferisco il tonno in faccia spada. Di Bacchiso c'è mi sono. Niente giù. Oh signor Bacchiso, se sei tu non sei scendi. Ma chi compare già di un microfono nuovo? Se gli arrivi tutto su mangiare un uovo nuovo, non so se si trattenne di su. No, non ne ha pizzi quello lì, nocco. Ma fatto bagnissi deve darsi sopra. Le coperte per si pigliare il raffreddore come fai graziale. Aspetta che ti ho detto buonasera da Dicciu. Buonasera signor Bacchisio, perché c'è Franco, c'è anche. Siamo chiamati Franco, buonasera Franco, ben ascoltato. Sono un po' bronco. No, poco fa ho inserito il microfono nuovo, adesso funzionava su questa radio, invece non va. Ma solo l'importante. Ma solo l'importante, sono da capo sulla bruciata. No, ti ho detto che il microfono di una radio nuova. E la stavo provando su questo qua. Ma l'importante è la rimodulazione, no. Allora ci saranno a invertire i fili. Ma quello lì è dell'altro apparato, non lo tocco. Allora fa una cosa, vai da Pusale e ti prendo l'adattatore, capito? Li fai la prolunga l'adattatore da maschio a femmina e te lo giri come vuoi lo spinotto, senza bisogno di tagliare niente. Ma no, questo ripeto, è il microfono dell'apparato nuovo che arriva ad oggi. Te la stavo provando su questo qua, a vedere se funziona, ma non ci va bene. È diverso, ma chi? Bisogna invertire un filo. Tu mi hai detto, dice, no, sono tutti uguali. Io ti ho detto l'altra notte, no, non sono tutti uguali, ognuno ha i cavoli suoi. E infatti mi ha avuto togliere la curiosità di provarlo come ti ho detto io. Evidentemente a quello lì non va bene. Ce ne sono parecchi che a me andava bene, capito? Che quello non l'ho provato a quello lì. No, siccome l'altra volta sono insistito, dice no, va bene, e dico, adesso la curiosità è femmina, diciamo così, ci ho provato, non va bene, non andava bene. Allora, ma chi? Io voglio sentire l'apparecchio, cazzo, tu stai sentendo un altro apparecchio, fatelo sentire la roba come si deve. Ma chi dice? Chi fu del vado? Ah, te lo fa sentire la Parigi. Ah, non lo so, boh. Ma chi? Ma attaccato l'hai? Ah, no, lo sto togliendo dalla scatola. Vabbè, i spinotti dei bucatti. Banane, le cose che si comprano, tutte verdura. Sì, bisogna far così. Marco! Ehi, da lì, vedi Giovanni? Ah, io, i fricca, vai! Cosa ci racconti? Cosa ti racconto? Sempre della variante, cosa ti racconto? Casa, lavoro, lavoro a casa, Giovanni, e campagna. Sei giovane, per cui già lo puoi fare tranquillo, senza sforzarti e niente, per cui cataletta tua, fricavo la presa che altro bugno. E va tagliato un po' di legna, ma l'ho messa da parte per il camionetto, l'ho tutta sistemata, stasera, tutto niente, e poi me ne sono salito perché stava cominciando a scendere l'umidità. Allora stava pulita il piazzale, tutto gatto, si è chiamato, adesso è a posto. Perché dovevo scendere domani mattina, ma domani mattina non posso guardare perché giù di fare un travaglio, devo finire quel lavoro lì e quindi ne ho approfittato stasera a farlo. Hai fatto bene, hai fatto bene. Avanti, signor Bacchì. Continua che sto lavorando. Lasciami lavorare. Cosa hai detto, Bacchì? Sotto la vicina morte il microfono alla bocca. Veramente ne sto lavorando. Non lo sapevo, tu lo sapevi. Sì, sta detto che sta lavorando, deve essere ponendo a posto l'altro apparato. Ah, almeno lo sentiamo, grazie, dai. Almeno lo sentiamo. Sai, tranquillo, l'importante non esce quello lì. Sì, fermo così, fermo. Ma le banane ce li hai, se no ne ho io, ne ho preso un chilo e mezzo mi stamattina, per il podio. E lasciamolo travagliare, poi già entra Edu. Vero, fra? Oh, va bene, no, che banana grossa, io vennei, non vennei problema. E ci andiamo a Io Bacchi, fate sentire questa voce mascola da lì. Aspetta, appena che attacca tutto lo senti, squillare che ha abbacchisito, oia. Ma fanno bene lì, fanno molto bene, per cui già lo sappiamo, è a torto, perché se lo io preciso, c'è anche torre, e fanno molto bene, dai. Lei, Gianna, l'importante è sentirsi, dopo per il resto va sempre bene tutto. Eia, vero so. Il programma lo deve, quando lo accendi. Ah, già è vero che ti apro, vabbè, non è un problema, scatta. Ma provalo a ammarlo, scatta. Come ti ha fatto? Mi lamento. Ma è facile a farlo, vai, già. No, a che punto no, Bacchiglio? Vedi Bacchiglio, vero mio? È esperto in queste cose, vero Bacchiglio? Ah, no, ma fatti partire coso il 2000, ragazzi, quello è tutto digitale, amico, da Parigi. Però è una cattolina di fiammiferi, ragazzi. Non piace, ragazzi. Dai, giù capato, gli butto la cattola e gli butto dritto. E pare che si deve fare. E se c'è, gente che non me ne ammento più, va. Il tastino è muovere il logoso, il Vox. Ma il Vox, per adesso magari il Vox non c'è bisogno di toccarlo, so. No, per programmarlo in italiano. Ah, non mi ricordo come bisogna fare. Questa è la cattura, non è più cavato, non è soltanto di quello lì. Mai! Sta papà! Ma che facendo già? Sto cazzo me la so! Ehi, dici c'è, fra chi sei c'è? Bacchisio, signor Tore, vai tu! Ehi, avanti, avanti, Tore! Ehi, buonasera Luca, stai andando dove andiamo? Ciao Luca, buonasera, a livello Babazzurro ci arrivendo in occhi. Ah Franco, anche a te cambio, matto sono. Come ti sto arrivando via con le perre? Sì, no, per Radio Super 5. Quindi va bene? Va bene, avanti un Bacchisio, buonasera anche a lì. Aspetta che Bacchisio non è gente, tu. È un nel genere, fra poco si è a posto tutto. Allora, Tito. Caspita, Bobbo. Luca, già sappiamo che sei basso, quindi non ve ne bisogna che te lo diciamo. Allora, sono alto, 1 metro, 1 tacco. Ok, buonasera Luca, stavo lavorando, non potevo risponderti. Paolo, non riesco a trovare la M, è solo FM, cosa hai fatto? Guarda dove c'è il tastino, AF, quello lì è AM. AF. È sicuro che ho provato e non funziona. Devi tenerlo schiacciato. È un po', bisogna lasciare un po', almeno un secondo, due. No, devi programmare con il tastino MG e cosa, il box, girare per trovare EI. Ah, ecco, non mi ricordo, sulla D o sulla F. Basta che tieni appena lo schiacci, vai, però deve mettere in coso, la E I, deve mettere, perché sennò non funziona, rimane sempre in FM. Non mi ricordo adesso com'è, sulla D, la banda D o sulla banda C, non mi ricordo adesso. Sulla banda A deve andare, però deve... Lo deve mettere con la EI, deve andare, se no non rimane sempre in FM, rimane. Rimane sempre in FM, ci ho provato in tutte le maniere e non in FM. No, non toccare quelli lì adesso, tocca soltanto il tasto EMG e l'altro fianco che c'hai, girando verso destra, devi girare per cercarlo, devi tenere premuto EMG e muovere il coso, quell'altro tasto, la mano pulina, devi muovere per cercarlo, tieni premuto prima quello e poi vedrai che ti porta lui direttamente lì. Vabbè, Bacchi, riuscito ci sì. Un cavolo, canale 23, 27, 255 la frequenza, e me la va. Però FM, Vox FM. Ma cosa, ho messo la EI prima. Esci, quando aspettami. Perché se non metti quello no, ti dà la frequenza sì che te la va, però non ti dà in AM e FM. AM mi dà solo, FM mi dà, AM no. Allora, adesso riaccendo. Esce scritto c'è. No, devi andare, tieni premuto EMG e poi giri la manopolina di PTT Vox on Gain, quella lì devi girare, verso dall'altra parte. Giamari! AM non si può andare. Giamari, guarda che mi devo assentare, un attimo sto andando a prendere la 50, ci sentiamo dopo. D'accordo, so, vai pure. Mi portate, sei uscito? No, c'ero io fra. Ah. Ho provato a stazionare quanto ce n'era. Uno. Pensa a controllare me. Vediamo. E uno ce l'ho io. Ne avevo tolto, ne avevo sceso l'antenna. La spirale era 5 o fra, ecco perché c'avevo le stazionarie. Invece l'ultima manciova andava a 7 la spirale. Allora l'abbiamo buttata in terra, abbiamo messo a posto tutto, ho cambiato il cavo e adesso ne ho uno. Prima ne avevo quasi 9,5 più. L'hai messa nuova l'antenna qui. No, l'antenna è sempre la stessa, è nuova l'antenna. Certo, 4 anni o 5 anni che c'è l'antenna, è nuova ancora. No, il cavo ho cambiato, ci ho messo il 150, ci ho messo. Sì, quello più fine, ragazzi, perché quello è almeno isolato, invece quello grosso almeno lo piego come voglio, capito, questo qua. Beh certo, e poi è buono quel cavo lì. Buonissimo, ottimo, va molto bene. Sì, così che è tutto nuovo, per cui uno, ce l'ho uno in stazionaria, in tutti i canali. Io sto utilizzando l'RG58, ciò adesso. No, il 203 ci ha portato perché l'antenna poi l'aveva coricata e ho smartellato tutto. Tu c'avevi quel cavo fine prima, Mi ricordo che avevi il cavo fine prima. E poi gli avevo messo il 213 grosso però. Era bella l'antenna, andava bene, ha fatto la cazzata a spasciarla, Era un bombo prima, Poi c'era anche quell'altra a fianco. Bella dritta, è un punto buono, e qui c'avevo un punto buono dappertutto a darvi con quell'antenna tu. Lo so, e adesso vediamo un po' se in seguito magari l'appiatto qualche antenna buona se mi capita. Adesso quando salgo su in Germania vedo un po' in Belgio se la trovo una 95. È difficile, non penso. Se ne trovano più. No, se la Sirio c'è adesso, oppure la Mantova Turbo, ma non mi piace la Mantova Turbo, per cui poi c'ho anche quella che di precipizia a sentire cose, c'ho ancora quella lì io, che quella è nuova, che un mese di vita ci aveva piazzata, no? Quella è nuova, una bella antenna, ma lì. Io ho fatto la cazzata che me l'ha sciolto il PDL, la bui, me l'ho buttata a terra con la mola, quanti ne farà si è fatta a pizza. A piazzau, la puoi piazzare ugualmente, un'altra antenna la puoi, ma non so se valga la pena oppure no, ma sta uscendo bene, per cui trovate va, tante d'ora sopra a fare il suo travaglio, non vale più la pena, vai fra. No, e poi non sai cos'è, poi quella antenna comincia a rompere le palle, sai, perché disturbi magari, capito? E allora questo non disturba nessuno, che magari capito. Se ti capita il Belgio, guarda quanto costa il 6009. Il 6009? Vabbè, quando salgo ti faccio sapere. Vediamo come c'è. Il coso sul... come si chiama? Fuori costa, costa mi sembra 160, 180, però il trasporto 25-30 euro. Ecco, quando salgo su in Belgio vedo un po' quanto viene. Beh, sto dicendo, il Regno Unito costa un bel, magari costa più poco, ma ti fanno pagare il trasporto da 26 a 30 euro. Anche in Italia sono una massa di ladri, capito? Macello, per carità. Mi sembra che l'ho vista costa 165 se non sbaglio, mi sembra che è così, 165 o 175. E cosa te ne fai, Giovanni? No, così, per un guscio, perché io c'ho il 5005 che è preciso, so che il 6006 c'ha le luci azzurre, capito? Mentre invece questo qua c'è l'arancione, capito? Ah, ecco, capito. Perché mi piace più azzurro l'affare il frequenzimetro, capito? E quel nella 68 che sto usando io è tutto azzurro adesso. Anche questo ce l'ha arancione, non mi piace, che se fosse stato azzurro sarebbe stato anche molto più bello, invece no. Però questo è il 7009, questo è il 7009, fra. E invece va bene, esce bene, dai. A voglia, è nuovo, cazzo. Anche 5005 è nuovo, capito? Però mi piacerebbe averlo azzurro, i discoli. Cos'è, tutto digitale? Già. A me questa roba digitale, sarà, ma non ho... Non vi piace? È un macello, cioè, certe volte, perché devi aspettare dentro, i frugia, proprio di riusciva, capite? È un macello. Però sono bellini, dai, anche l'occhio vorrebbe farti, dai. Sono belli perché ti memorizzi i canali, tutto quanto, i programmi rimangono lì, capitano, stai a ticcaffa. Ma vedo un po', ma chi si ho fatto, ce l'hai? Sto leggendo. Non ce la fai, no? Certo, fa passare la storia un attimino, gatta. Non ti scappi tu, te lo fai. È un attimo. No, ce l'ho trovo per il tempo. Poi ce l'hai un secondo. Oh, anche io non ci stavo riuscendo, vabbè, fattore, come fare? Me l'ha detto e già l'ho fatto, però c'ero una sera intera ci ho messo e non ci riuscivo a farlo, invece fattore mi ha detto come fare e già ci sono riuscito. Devi toccare quel pulsantino un paio di non ti hai premuto per un paio di secondi e vai in AM. Infatti, se no devi rimanere almeno un paio di secondi col tassino abbassato. Ma chi capisce, se no non ti esce, no? C'è stato, ma abbastanza, ma capito che facciamo male. Prova a spegnerlo, allora lo spegni, tieni premuto quel tastino e poi lo riaccendi. Esatto, e ti esce. Capito, se no così non metto gli piedi. Sto facendo così, io l'ho fatto già 3-4 volte. Di noi è un apparecchio, dai. Ma i vegetali sono così, fa. Però, bisogna leggere, e riesce a fare tutto. E beh, ci saranno le istruzioni da mai fare, ma se fa come gli ho detto io, funziona, deve funzionare per forza. No, non funziona, già qua. Uno va, riesce a fare le nuove in azienda. Solo questo. Ma non è che c'ha problemi, no, con l'apparecchio. Infatti, quello che sto pensando, che sia malato. Ma se non ci abbia problemi di fatto di fabbrica che non vale a M, mi. Non può andare, è fermo e sì. Io la frequenza del 17 sarà le nuove nel tempo. Ma questo cos'è? 40 AM e 40 FM, così è. Sì, è 40 e 40. Strano però, dalla torre, un attimino, ti ho messo a fare un attimo, Vediamo se c'è Luca ancora. Luca, quello sta mangiando passo al forno ancora, perché c'era rimasto un pezzo da ieri a pranzo. Luca, ancora mangiando, sai, non parla che ha bocca piena, Oh, Franco. Oh. Io ho preso l'altro due bidoni nuovi, ha preso, Li ho portati in campagna stasera. Guarda che scendiamo con la carabina. Ah, quando vuoi, Giovanni, che prova a pesce di mucca. Se lo sarà, dottore, ando a bucarmi i bidoni, Ma bucati li aveva, Non me l'hai bucato tu con la carabina, te la metti. Se li ho presi nuovi, ma non ti ce la scende con la carabina tua, no? Saranno, Bendarini. L'altro giorno ho sentito a coso che sarà comprata a fare tirassegno, stava dicendo. Pizza quella me la metto, che era già demolito questo bidone. Tu bucato, tu zappato a cingomma laggiù, vai, già frati, tu laggiù lampate. Vabbè. Ma che lavori, che tra me siamo piazzato 11.45, chi dà buvilipola? Stavo dicendo, Giovanni, devo piazzare l'antenna nel camper. Aspetta, nel camper, lì bisogna trovare la massa, perché se non c'è massa no, esce male. No, perché sopra c'ho praticamente la, come si chiama, l'imperiale che è tutto in alluminio, capito? Quindi devo buscare una lastra di ferro che già ce l'ho e fissarla sopra l'alluminio, se no non fa massa. Infatti, dopo ammazzalo, ma cosa mette la, come si chiama, la, Beh, ma se trovi, ma no, non va bene nemmeno, perché la cabina rimane più bassa della, del camper, che è un macello, è un macello per altre baracchine, però c'è un sistema, l'ha fatta quello del portatore che usciva sempre male, chiedendo che vendo, l'ha messo con la massa e già funziona bene adesso. Allora, è alto, di altezza è quasi 4 metri e qualcosa, no, 3,50 m. Da terra a sul tetto, la cabina è 3,50 m lo stesso, è tutta unica, capito? Non è basso, perché c'ha i due lifti matrimoniali, che è a basso idraulico e c'è il letto matrimoniale, poi c'è l'altro letto matrimoniale che è all'altra parte, poi c'ha le altre tre cuccette che sono verso il, poi c'è il bagno, la televisione, c'è il satellitare che è sopra, il satellitare è piantato lo stesso, quello lì funziona bene. E ci volevo mettere un baracchino lì, ci volevo mettere sopra dove c'è il letto idraulico, giusto? Perché è motorizzato il letto, scende, capito? È un rebusio per la 27, però ci sono quegli antennini bassi, da 70-80 cm che vanno bene, perché lunga non la puoi mettere, perché secondo dove sei te la sfasci subito l'antenna, capito? Però ci metto un antennino da 60-70 cm, come quello che avevo sulla Renault, se ti ricordi, e quelli sono comodi, sono basse e anche se passa sotto gli alberi non la tocchi. Io stavo cercando, Giovanni, la Minox della Sigma, stavo cercando, quella bassa, ti ricordi? Ma la trovi su eBay, c'è ancora, mi sembra. No, non la fanno più, la stavo cercando, non la fanno più. Allora ne trovi una e la tagli e te la fai a misura, capito? Certo, già le sai fare queste cose, per cui la tagli e te la fai a misura. E se no ci metto la frusta nera, e c'è una frusta nera, ci metto quella. Ma la frusta nera è lunga, è sempre lunga, certo. Se la corichi lo prende bene, deve essere dritta l'antenna, mentre con l'antennino è tutto un altro discorso, capito? Mi sa che non è 80 centimetri la frusta nera che ho io, o 60-80. Quella andava bene, cazzo, quella dovrebbe andare bene. Se c'è un punto di massa va benissimo. E la frusta nera è buona l'antenna, esce bene, sta caricata. Ce l'ho in magazzino la frusta nera io. Eppure mi sente Giulio, mi sente anche a coso, un bel di gente, capito? E ce l'ho in magazzino, dentro il magazzino. È attaccata sullo scaffale, va benissimo. Certo, se la metti fuori è tutta un'altra cosa. La frusta nera salta sempre un'antenna buona, capito? E anche quella l'hanno tolta fuori produzione, non la fanno più. E questa che ci ho visto anche la molla tutta rugginosa, però ho visto che funziona bene, per cui ne ho uno di stazionare in magazzino, ti puoi immaginare, dentro il magazzino. E quello della Midland da Gianfra, 80 cm di altezza. Ma la stavo cercando a comprarmela una Sigma di quelle per mettere al campo, perché quella che ho io è troppo lunga, capito? L'ho presa su internet e ce l'ho in macchina, con la base è stata la metà. E ti dico, funziona bene, dice Maria, se mi ascolta. Ma la Sigma è la Minox, la 800? No, è della cosa, della... questo stavo dicendo poco fa. Della Midland, è una della Midland, la Midland la fa. E con la carica trasparente. Ce l'ho io la Midland qua, la vecchia Midland, ma non mi piace come antenna. Tutto è in acciaio, In acciaio fatto, è tutto acciaio. C'è questa carica trasparente e poi è tutto acciaio. E io la volevo cambiare con una Sigma Minox, se la trovo, cambia. È nuova questa qua, l'ho presa. E voi tentate di piazzare quella, ma è troppo lunga, non è meglio. 80 cm quella che ho preso io, tra basetta e tutto 80 cm. Ho capito, ma lasci che va, io c'ho anche la 1000, ma è troppo alta la 1000, Sono un 1,60, 1,70 qua, in soffitta ce l'ho, ma quella sono troppo lunga, lunga e pesanti. Ma quella, vedi, la camper quella va bene con il cata, capito, perché rende con il cata quella lì. Invece se metti quelle corde coricate non rendono niente. No, si perdono. E poi che quella lunga perché non ci metti. Metti un coso, una cordicella di nylon per tenerla ferma. La metti inclinata oppure curvata. E io stavo cercando anche se trovo una... anche una 1000, la metto da davanti, la corico appena appena e va benissimo. Quella lunga, invece se prendi quella corta non la puoi coricare, capito? Io cerco un camper qua vicino a casa, l'ha piazzata sul parafango anteriore sinistro ed è una Sigma 1000 e c'è la dritta. Sì, è dritta perché c'è il processo del coso dei letti e lui l'ha fatto passare a fianco. Ho capito. Ma quella la vedi quella Sigma? No, ce l'ho qui, forse per servire Gianfra. Devo guardare se ne avevo due, devo guardare se c'è l'altra, se non l'ho fatta. Ma io ne ho la Midland qua, nuova, se ti interessa. No, ce l'ho questa lì, ce l'ho abbastanza quella lì, perché è calamitata, è macchina non è buco, capito? A quale buco nella macchina sono contrario, ho sempre usato la calamita. E dunque che ce l'ho già. Beh, la base magnetica ce l'ho anche io, quella lì non è un problema. Ma teniamo una base magnetica da 20, ci vuole due uomini a staccarla e quando la stacchi rovina sempre la carrozzeria. Ma so, quella grande, quella rotta, ho capito, ce l'ho anche io quella lì. La mia rimane cromata la base magnetica. Eia, ma non la uso più, perché ogni volta che la stacco sulla macchina mi graffia la macchina, perché quando va a staccarla ti scivola e graffia. Eia, infatti è così il problema. Devo trovare un metodo ben preciso di trovare prima di tutto un piano di massa per metterlo. Se no è un casino, perché sopra l'imperiale è tutto alluminio. L'alluminio è buono, si fa massa l'alluminio, solo magari a poco. No, già c'è l'imperiale che c'è su è abbastanza largo, è 1,90 per 1,20. Penso con l'imperiale perché non la fissi. Infatti la voglio mettere lì, la voglio bucare lì e la metto lì. Bucare l'imperiale e fissarla lì. E non ti dà fastidio, solo che se non devi passare non sono alberi, perché ciò ne faccia tutto. Quello è il problema, capito? Vabbè, ma quella lì la curico, capito io perché stavo cercando un'antenna lunga? Perché c'avevo la possibilità di curicarla. Ah, ecco, la puoi anche curicare, inclinarla un po'. Ma se non ci sono alberi lasci dritta, se devi fare un tragitto che ci sono alberi allora uno la passa. Ho capito. No, io piccola ce l'ho l'antenna, ma non rendono niente queste antenne piccole, cosa? Non vanno bene, ci vuole quella lì per forza. Piccolo e piccolo, quello che dà il convento è quello lì. Avanti Gianmarino. Io non ne buco macchino. Non ho mai buccato macchino. Aveva la grondina, sulla Renault avevo la grondina, sulla 27 lo stesso avevo la grondina. E per cui andava bene. Ma metto sulla spartolone dietro, a fianco, e andava bene. La base magnetica ce l'ho, però non mi piace. Oh, già che non le piace un paracchino in macchina più, non ne metto più. Per cui non ho... l'unica fra è un'antenna buona per il camper, devi buscare, ma gli altri sono, dai. Sì, adesso vedo un po' se la trovo, che antenna la mettere lì. Qualche antenna che renda pure, capito? Ma già si trovano, già si trovano. L'importante è che tu ritrovi la buona massa. Quando c'è la buona massa, allora sei tranquillo, capito? La massa buona ci vuole, ecco, tutto lì. Sono rientrato. Già la trovo, non è un problema quello. c'ho un bel foglio di ferro anche, gli posso mettere quel foglio di ferro sopra l'alluminio, lo fisso e va bene lo stesso, e gli faccio il piano di massa. Ehi, ehi, ecco, hai fatto il capo della bacchiglia, lo devo mettere a posto. Ehi, non l'ha messo a posto. Si legga il manuale, c'è nel manuale come fare. Ehi, ancora, l'ho letto, riletto, mi sono rotto le palle. Perché non fa, non va, rimane sempre in M, è andato al canale 19 FM. Asco, ci vediamo domani mattina. Domani mattina vado in campagna, quando salgo la campagna. Ehi, è mezzogiorno, eh? Ehi, la facciamo, già ti chiamo io quando arrivo, forse che salga anche prima. Ehi, e te lo faccio vedere come si fa. Cosa terra, mo? Tante cose complicate le fanno, ca. No, non è complicato, a me pure l'ho fatto. Però ho visto com'era, l'ha fatto pure a me. Devi tenere premuto il tasto e poi mollare. Dice, spegni l'apparato, le istruzioni. E io ho premuto questo MG, l'abbiamo sentito, il tastino MG, che ho premuto, per ruotare la monopolina. L'ho fatta, rifatto, girato, rigirato, si sono girati tutti quanti e non dava. Bisogna resettarlo, bisogna spegnerlo, dopo riaccenderlo, col tassino abbassato. Via, passo la giornalista, di tutte le maniere, tutti i colori e tutte le prove. Vedrai, cioè, appena che lo vede, te lo fa vedere com'è la sua accenda. Anche a me mi ha fatto, beh, dottore, a me come fare, l'ho fatta, ti ricordi tu? Bisogna spegnerlo. Premuto il tastino e poi accenderlo e poi vedrai con la manopolina devi cercare sì. Dai signori, io devo chiudere, chiudo, ci sentiamo domani. Allora, ciao, allora Franco, buon proseguimento, saluto di casa, ci sentiamo alle prossime. Ciao signor Bacchisio e saluto di casa e ciao to. Allora, state un altro pochettino, vedo un po' se ti riesci. E ci sentiamo domani, ok to, ciao, chiudo. Ok, ciao Giammarì, ci sentiamo domani, ci sentiamo, ok. Va benissimo, riprendi Fra. Ciao Giammarì, buona serata, buon tutto, saluta il Corea che da parte mia ce l'ha riassolta. Ok. Vai to. Allora Bacchi, riuscito ci sì. No, no, ciao Giammarì, buona serata, domani. Niente Tone, ho ripetuto l'operazione come dicevi tu, nulla a fare. Allora, adesso è acceso, io lo spengo, adesso è spento. Tengo premuto il tastino che c'è, ecco, adesso lo sto tenendo premuto. Adesso accendo, lo tengo premuto in qualche secondo e mi c'è scritto c'è, al lampeggio. Muovi il tastino, il pomello adesso, gira con il pomello. Lo giri sempre il canale 19, 27, 107 FM, dai che non si puzza. No, non è così che devi fare, non è così, devi girare per cercare quando lo devi mollare, quando lo è acceso, lo devi mollare. Adesso riprovo ancora, mi sto un po' tutto. Adesso prendo premuto, adesso accendo e tengo acceso. Adesso lo tengo devo mollare. Mi viene scritto sempre 19. Il pomello gira a vedere. Come? A girare il pomello per se te lo sposta. E beh Bacchi. No, no, niente. E lascialo stare, dai, lo facciamo domani, te lo faccio io, te lo faccio. E devi, quando lo muli, quando sta lampeggiando, devi girare il pomello. Ho provato, to, mille volte, via. Ho letto le istruzioni 100 volte. Va bene, è arrivata l'ora del merendero per me, to. Ci sentiamo domani. Ciao, autore, salutissimi, sotto la signora, a domani. Ciao, da Franco, da te. Salutissimo in casa, a risentirci ancora. Ma chi sei interessante, chiude il foro perché devo scendere giù. Riprendi il sole. ok, ciao Bacchi, ci sentiamo alle prossime, riprendi Fra. Ciao Bacchi, buonasera, buon tutto, saluto dalla Correa, ce la riascolta le grossemine, c'è c'è. Beh Fra, io pure Sarra che mi faccio amendi. Andate, dai, ci sentiamo alle prossime, Fra. Buon Correa e tutto quanto, ok, ci sentiamo, buona cena, se la devi fare, è tutto. Ciao, tocco, tracambio tutto da parte mia, saluto a Correa, anche io adesso porto giù il cane e vado a cenare. Ciao, ciao, salutoni anche chi c'è l'ascolto, sta ascoltando più qua, un saluto cordiale a tutti, ciao, ciao. Ciao, Fra. Attenzione 23 per una prova radio. 1, 2, 3, prova, radio, radio, radio, ce ne sono 23 per una prova, 23 per una prova. 1, 2, 3, prova 10, canale 10, c'è nessuno sul 10 per una prova, prova 1, 2, 3, 10, 10. 1, 2, 3, prova 10, 10, canale 10, 1, 2, 3, prova canale 10. Brecco, brecco, canale 10, brecco, canale 10. 10, 10, 1, 2, 3, 10, canale 10. Ci sei? Bene? Sì, perfetto. Non so se è troppo alto il mitigante, sto usando il microfonino da palmo. Ah, ok, va benissimo, dai. Cioè, è perfetta la radio. Ok, allora va bene così, a uno regolato come avevi detto tu. Niente, a posto, dai. A posto, anche in FM sta andando bene, eccetera, tutto a posto, più o meno sembrerebbe che vada. Benissimo, sì, va bene, io ti sento molto bene, per cui meglio di così, penso che non sia possibile, nel momento che è il massimo. Allora solo provare se in modulazione, dai, anche se lì non ho toccato niente, quindi se andava bene prima doveva andare bene anche adesso. Non so, guarda, prova a sollevare un po' il mitigain, non so se sta distorcendo, considera che sto usando il microfonino da tavola, cioè il microfonino normale, la saponetta. No, non sta distorcendo, va bene, stai usando il microfono normale, vabbè, comunque, va bene, passami. Vabbè, se vuoi fare un passo di anche la FM. No, la FM questo apparecchio non ce l'ha, è un Cobra vecchissimo, molto molto vecchio, 139, Cobra 139, la base, per cui non ce l'ho, la FM in questo apparecchio non ce l'ho. Ma no, comunque ho fatto un paio di prove, fino a 100 watt lui è perfetto, adesso va bene, fino a 100 watt fisse in FM non crea nessun problema. Allora che tu abbia problemi un po' con l'alimentatore, che alimentatore stai utilizzando? Vabbè, questo qui è un alimentatore, diciamo che non è perfetto, ecco, ha un pochino di alternata ce l'ha. Forse tu mi sentirai con un pochino di alternata, perché ha 2 volt di corrente alternata, non è proprio perfettamente stabilizzata questa corrente qua. Dovrei cambiare l'alimentatore, l'altro ce l'ho, lo switching da 30 A, quello sì, quello è perfetto, ma lo stavo usando solo per il K quello. E quando rimetti questo mettigli quello a 30 A che va bene. Allora, sta andando bene, è a posto. Se sono in giro domani mattina magari ci sentiamo, così te lo do. Ok, va bene, d'accordo. Io salgo sempre la mattina, sono sempre al solito posto, oppure mi dici che vengo io, va, non so, vieni un po' tu, come ti viene meglio. Va bene. Va benissimo, allora se tu hai il tempo per poter passare, già lo sai dove sono, dove, Noi ci siamo visti ieri e anche domani sono lì, ok? Va bene, ci sentiamo domani. Ciao Giulio, buonanotte. Ciao Fabio, buonanotte, grazie, ciao.